Hers was just sentite, d'ora in avanti niente più Guns N' Roses e Soup Dragons, capito? Vi voglio a dieta stretta di Soul. James Brown a colazione, Otis Redding a pranzo, Smokey Robinson a cena e Aretha per gli spuntini fuori pasto. Il Soul ha il ritmo del sesso e anche il ritmo della fabbrica, ha il ritmo dell'operaio, del sesso e della fabbrica. Il soul è musica che il popolo capisce. Certo, è musica semplice, ma ha qualcos'altro, qualcosa di speciale. È onesta, ecco, è sincera. Non è musica stronza. Ha il coraggio di dire che viene tutto dal cuore. Certo, c'è un sacco di musica che dà piacere, ma il soul dà più di questo. Il soul ti porta lontano, ti afferra per le palle e ti tira fuori dalla merda. Bentrovati a Soul Time, alla sesta puntata della stagione di Soul Time su Radio Wombat. Iniziamo anche questa puntata nel segno della Tangerine Records, o meglio, più che iniziarla, la proseguiamo. C'è stata già la puntata scorsa con la prima parte dedicata a questa etichetta di proprietà è fondata da Ray Charles nel 1962, la cui esperienza è proseguita fino al 1973. Nella scuderia della Tangerine Records c'era una voce meravigliosa di cui oggi vi voglio fare ascoltare un paio di brani. La voce in questione è quella di Lula Reed, nata nel 1926 e scomparsa nel giugno del 2008, una cantante americana prettamente blues e gospel che ha registrato negli anni 50 e 60. Nel 52 riuscì anche a raggiungere le vette delle classifiche R&B insieme a Sonny Thompson e successivamente ha anche lavorato e registrato con il grande chitarrista Freddie King. Vi propongo un bellissimo blues su etichetta Tangerine di Lula Reed del 1963, quindi iniziamo in maniera molto molto delicata con un blues veramente bellissimo, vi consiglio di ascoltarlo. Ci ascoltiamo Lula Reed con Troubles in Your Mind. mind. Lola Reed con Troubles on Your Mind, grandissimo brano. Con il prossimo invece andiamo nel 1963 e ci ascoltiamo Terrell Prude. Cambiamo completamente registro, passiamo da questo blues molto lento e intenso, mentre passiamo ad un brano ricco di venature sia jazz che funk. Ci ascoltiamo questo Terrell Prude del 1963 con questo strumentale che si intitola Frog Eyes. Terrell Prude su Radio Wombat. Questo era Terrell Prude con Frog Eyes. Dopo questo inizio in casa Tangerine, ricco, ricchissimo di blues o sfumature blues, proseguiamo invece con l'R&B, il soul e il Northern Soul più propriamente detto. Ci andiamo ad ascoltare gli Ohio Players, gruppo molto molto conosciuto, gruppo che ha fatto tantissimo funk negli Stati Uniti, ma anche soul e R&B, ed è stata una delle band più popolari in America durante gli anni 70, conosciute per hit come Fire e Love Roller Coaster. Io invece questa sera qui su Soul Time vi propongo questo brano degli Ohio Players del 1967, naturalmente su etichetta Tangerine, un brano prodotto da Johnny Brantley, scritto e eseguito appunto dagli Ohio Players, che si intitola A Thing Called Love. Quindi ci ascoltiamo gli Ohio Players, il tempo di spingere play per l'appunto. Ecco qua, Ohio Players, A Thing Called Love. To a woman, it's a place called home. To a man, it's the color is on. To a doctor, it's to save someone. To the moon. nothing but pain. But please, babe, I ain't thinking of. Cause to me, it's a thing called love. A thing called love. A thing called love. Don't you know that it's Jane? Ohio Players con A Thing Called Love. Proseguiamo da una punta di diamante come gli Ohio Players per quanto riguarda la Tangerine Records ad un'altra punta di diamante. È un, tra l'altro, un grandissimo collaboratore di Ray Charles, nello specifico lui è Jimmy Lewis, ve ne ho già parlato nella puntata precedente speciale sempre sulla Tangerine. Questo cantante americano, cantautore, arrangiatore e produttore, nato nel 1937 e scomparso nel 2004, che ha collaborato per decenni con Ray Charles come autore di molte, molte canzoni proprio per Ray Charles e anche come produttore. A questo giro vi faccio ascoltare questo suo lavoro per la Tangerine, che si intitola Woman, stampato non si sa di preciso in che anno, o almeno sul dischetto non c'è stampata la data precisa, ma tant'è, ci ascoltiamo un gran brano di Jimmy Lewis per l'appunto Two Woman. Thank you. Jimmy Lewis con Two Women, in questo brano in particolare l'influenza reciproca con e verso Ray Charles è molto molto presente. Proseguiamo a dritto con la nostra selezione Tangerine Records e ci ascoltiamo Andy Butler con questo brano che si intitola Coming Apart at the Seams, brano molto noto all'interno delle serate Northern, un brano del 1968, quindi ci ascoltiamo Andy Butler, Coming Apart at the Seams, qui su Radio Wombat. Questo era Emil Griffith, anzi scusate, Andy Butler con Coming Apart and the Seams. Il prossimo brano invece che ci ascoltiamo è per l'appunto Emil Griffith. Il brano si intitola Going, Going, Gone ed è un brano anche questo della Tangerine Records del 1968, scritto da Dee Irwin. Quindi Emil Griffith, Going, Going, Gone. Yeah. Emil Griffith con Going, Going, Gone. Proseguiamo con Gene Diamond, questo cantante di Los Angeles, il cui stile ricorda decisamente anche quello di Ernie Andrews e in misura minore quello di Joe Williams. Di Gene Diamond ci andiamo ad ascoltare questo brano sempre su etichetta Tangerine. Non stiamo ascoltando altro in queste due puntate, in quanto puntate speciali dedicata a questa bellissima etichetta fondata da Ray Charles. Ci ascoltiamo Miss Tall and Slender, che tra l'altro, piccolo aneddoto, fu pubblicata anche dalla EMI in Italia, quindi era venduto anche su una etichetta italiana, per la precisione la EMI Italiana SPA nella sua suddivisione Stateside. Quindi Gene Diamond, Miss Tall and Slender. Diamond con Miss Tall and Slender. Il prossimo brano, eccolo qui, già pronto per l'ascolto, è un brano di Louis Jordan, nato come Louis Thomas Jordan nel 1908 e scomparso nel 1975. È stato un grandissimo musicista americano, cantautore e band leader, divenne molto molto popolare negli Stati Uniti già dalla fine degli anni 30 fino agli inizi degli anni 50, conosciuto come The King of the Jukebox, ed era molto molto apprezzato anche dal pubblico bianco in quegli anni molto difficili in America e anche negli anni successivi dell'era dello swing. Quindi è stato appunto uno dei più grandi musicisti della storia americana e ha lavorato con tantissimi artisti della scena statunitense come Bing Crosby, Ella Fitzgerald, Louis Armstrong, ed era anche un grandissimo musicista per quanto riguarda in particolare il pianoforte e il clarinetto. È stato un cantautore molto molto produttivo e ha scritto o coscritto molte canzoni che hanno influenzato tantissimo la musica pop del XX secolo. Ha iniziato appunto come una carriera solista, poi ha proseguito nei primi anni 40 e ha raggiunto un grandissimo successo commerciale fino ad essere appunto definito il re del jukebox. Ci ascoltiamo su etichetta Tangerine Louis Jordan con questo bellissimo brano che si intitola Working Man, perché Louis Jordan ha lavorato tantissimo durante la sua carriera, ha inciso e prodotto tantissimi tantissimi brani, tra cui alcuni proprio per la Tangerine Records. Io vi propongo questo bellissimo brano del 1963 scritto da Titus Turner. Lui è Louis Jordan, Working Man. It show gets late quick, early on Saturday night, just about the time when I'm feeling right. It show gets late quick, and the times are getting my time to play just don't last long enough. I'm a working man. I'm a working man. I'm a working man. I'm a working man. And I need some fun when my day is done. It sure gets late. I'm a working man. When my baby's in my arms, my cup runneth over the cliffs of Dover early for the break of dawn. Show gets late quick, and the times are getting rough. Saturday is my time to play, just don't last long enough. I'm a working man. I'm a working man. I'm a working man. I'm a working man. And I need some fun when my day is done. It show gets late quick when my baby's in my arms. My cup runneth over the cliffs of Dover early for the break of dawn. Pezzone, pezzone questo di Louis Jordan. Abbiamo aperto la puntata con Lula Reed. Ho qui sotto le mani un altro suo bellissimo brano, quindi ce lo andiamo ad ascoltare, questo brano del 1967. Lei è Lula Reed, il brano si intitola Take Your Time. It's a funny thing. Well, you know, it's something I can't explain. Well, Seguiamo con la nostra selezione qui su Radio Wombat con Soul Time e ci andiamo ad ascoltare un duo che abbiamo già ascoltato nella puntata precedente di questi speciali sulla Tangerine Records. Ci ascoltiamo i grandissimi Ike e Tina Turner con questo brano inciso per la Tangerine nel 1966. Il brano si intitola Beauty is Just Skin Deep, in assoluto tra l'altro uno dei brani più famosi di questo fantastico duo inciso proprio per la Tangerine. Ike and Tina Turner, Beauty is Just Skin Deep. So che sto per scadere nella banalità più assoluta, ma che voce aveva Tina Turner. proseguiamo con il prossimo brano, il penultimo, perché le lancette dell'orologio girano. Ci ascoltiamo George Bird. Abbiamo già ascoltato George Bird nella passata puntata con il brano I Am Unbelievable dello stesso dischetto. Ci ascoltiamo il lato B, che si intitola You Better Tell Her So, questo brano del 1970, sempre su etichetta Tangerine. Lato B, quindi visto che sono in vena di lati B, chiuderei questa puntata con l'altro lato, il lato B appunto, di un brano che abbiamo ascoltato inizio puntata degli Ohio Players, A Thing Called Love, sempre su questo 7 pollici, girandolo dall'altra parte. Troviamo questo gran brano che si intitola Neighbors, brano del 1967. Prima di spingerlo e ascoltarcelo, vi rinnovo l'appuntamento per mercoledì prossimo alle 19, sempre sulla fantastica Radio Wombat. E vi ricordo che quando volete sul sito di Radio Wombat, radiowombat.noblogs.org, dal giovedì, venerdì più o meno successivo all'andata in onda di Soul Time, potrete ascoltare il podcast o registrazione della puntata. Io vi saluto con gli Ohio Players e ci risentiamo mercoledì prossimo alle 19 su Radio Wombat. Went up the hill just to see what's on the other side. Mother Hubbard had a very large cupboard. She had plenty of bones to hide. Miss the dell they had an old gray mare. Used to get on his pony and ride. Jack was limber and Jack was quick. I saw Jack jump over the candlestick. Yeah, he made it, man. Yeah, he finally got over. I don't think he made it. Then I take the next one. I want you to dig this now. Who is in here with all that red on? I'll tell you about it. Oh, okay. Now listen. Little Bo Peep had lost a sheep, so she went down to the lost and found. On the way she met the big bad wolf. He was trying to blow the pigs off down. Now King Cole was a swinging soul. He used to swing every night until three. One morning I heard a loud noise. You know the fool and moon next door to me. Yeah. Now Peter, Peter, pumpkin eater had a wife and couldn't keep her. Put her in a bed and see her. They kept her very well. How about that? She was crazy, man. Yeah, he must have loved her. I moved out here cause I wanted to. Oh, yeah. Now check, the rent man comes twice a week and I don't have no hot water. You don't have no hot water. Man, I got to move away from here. Yeah,